utilizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vorrei stare con una francese che mi baci alla francese, o magari con una spagnola che mi baci alla spagnola. Cos'è un bacio alla spagnola? Cosa fai? Lo domandi a un uomo. Valla a chiedere alla tua fidanzata, la tua relazione è avanzata. Voglio una ragazza incazzata, anzi no, la voglio tranquilla. Voglio mettere su famiglia come nello spot della Barilla. Di recente contemplo raramente, vorrei farmi due ragazze contemporaneamente. Mi piacciono le donne. Ti può descrivere un attimo che tipo di affettuosità? Cioè, voglio dire, il bacio sulla guancia, la carezza, che cosa? Per farci capire. Ci sono stati diversi gesti, anche perché siamo stati a parlare in modi personali, ma sempre detto, ma sempre di quello che ha detto. Sì, ecco. Ma sempre coccolata così nella testa, ma sempre baciata, stai tranquilla, Baciato dove? Baciato? Ma una volta ci siamo anche dati il bacio labiale. Alla francese? Alla francese, diciamo, ecco. Ma voi vi rendete conto che noi spendiamo, al di là delle ironie sul bacio alla francese della signorina, come si chiama, Barizonte, noi spendiamo dei soldi pubblici per sentire dei magistrati che in un tribunale pagato da noi chiedono a una signorina che è conoscente di Berlusconi, che ha frequentato Berlusconi: scusi, ma lei come ha baciato Berlusconi? Sulla guancia? Un bacio alla francese? Ma di cosa parliamo? Li paghiamo noi questi qua per mettere su processi di questo tipo, capisci o no? Lo capisci o no, Parenzo? Assolutamente normale e giusto. Ah, è normale, vabbè, ma non era la Boccassini, non mi ricordo chi era. Deve accertare. Ma che deve accertare? Ma che dici? Deve accertare. Vabbè. Due reati, cioè se ci sono state le famose cene. Ma mi avevano detto che eri a Piazza San Giovanni da Grillo, non sei più andato? No, io non sono Radio Casaleggio. Non sei Radio Casaleggio. Intanto Berlusconi ha una congiuntivite emorragica. Io non l'ho visto benissimo adesso dalla D'Urso, in diretta prima. Non l'ho visto benissimo, devo dire la verità, era un po'. Era molto molto stanco. Qualche giorno fa raccontava proprio di questa congiuntivite che l'ha costretto a non andare a Napoli oggi, alla fine della campagna elettorale. Berlusca. Quanti sono i signori in sala? Perché io vedo solo fino alla quarta fila, perché arrivo dal San Raffaele con la campagna elettorale che mi ha costretto a dei ritmi incredibili, mi hanno attaccato una congiuntivite emorragica, guarda, per cui mi hanno riempito di cortisone, di altre cose, e che vedi no, e quindi vi credo sulla fiducia. Che vedi no? Significa che uno non ci vede, insomma, in sostanza, no? Certo. Beh, fra poco chiariremo tutto perché gli italiani devono sapere. La stampa italiana è stata cacciata dal palco di Grillo. Alla stampa italiana non è stato concesso di seguire il comizio finale di Grillo, che sta per iniziare dal palco. Qualcuno si indigna, a me non me ne può fregare di meno, ognuno fa quello che vuole, dopodiché ci sono le conseguenze dei gesti, eh? Domani tutti titoleranno: Grillo proibisce alla stampa italiana di stare sul palco. Avanti, dilla, fai la tua tirata sulla cosa antidemocratica. E invece Cruciani Casaleggio cosa dici? Ci ha fatto bene a cacciare. No, un errore. Ecco, la un critica errore. All'interno del movimento. Un errore. Cruciani, ma quale critica all'interno del movimento? Non dire stupidaggini, dai, su, non dire adesso stupidaggini. Caccia, farei la fine di famiglia. Amico adesso. Mio, non ho il timbro qua. Populista che vai a inseguire il vento in poppa. Ma di questo, quale vento in poppa? Ma falla finita. Bravo, Bersani. I peggiori umori della società. Bravo. Va bene. Tanto mi aspettavo questa tua filippica stasera. Bravo Giancarlo, bravo. Bersani, figlio di un meccanico, Grillo miliardario. Sentite. Io sono qua, sono in mezzo alla gente, giro per strada, ok? Ieri sera ero in birreria a parlare con dei ragazzi che vogliono votare Grillo e gli ho chiesto: quando l'avete visto voi Grillo qui in giro? Va bene? Ok. Quindi a me mi insulto, sono figlio di un meccanico io, eh. So cosa vuol dire, non sono un miliardario. Tendiamoci bene. Le grasse, le tonne, mi piacciono le tonne, le tonne, le donne, le more. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Qualcuno dice viva che è finita, evviva è finita, stasera a mezzanotte finisce. A noi un po' ci mancherà, diciamo evviva perché siamo un po' stanchi, ma un po' ci mancherà la campagna elettorale che però continua, perché dopo c'è il Papa, dopo c'è il Presidente della Repubblica, c'è il casino per la formazione del governo che ci sarà, per cui non è finita, fino all'estate ci facciamo due coglioni così. Le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, mi piacciono le colore. Allora Berlusconi, la lettera sull'IMU, anzi no, voglio farvi sentire questa cosa di Ingroia, questo è uno degli audio del giorno. Ora si può criticare la lettera dell'IMU sulla restituzione in mille modi, no? Una fanfaronata, una roba da tototruffa come ha fatto Giuliano Ferrara l'altro giorno, la si può criticare proprio in tantissimi modi, per carità. Cioè anche chiamare i carabinieri, chiamare la magistratura, secondo me è una follia, però si può fare anche quello. Ma sentite Ingroia, sentite Ingroia che dice che la lettera è peggio delle lettere di morte che arrivano a lui. Ingroia! È vero invece che lei ha denunciato questa cosa della lettera di Berlusconi cui faceva accenno prima. Beh, quella lettera di Berlusconi la considero più grave della lettera di minaccia di morte che ho ricevuto. Sì, perché la lettera di minaccia dipende dall'impatto che ha una lettera. La lettera di minaccia di morte nei miei confronti la percepisco come un'ulteriore conferma che Antonio Ingroia dà fastidio, ma non... Più grave delle lettere di morte, Ingroia, su, dai! Ma è Berlusconi che fa la campagna elettorale come l'ha sempre fatta, dai! Su, con qualche trucchetto in più, con qualche mezzo in più, ma non è con questo che si vincono le elezioni, dai! Poi pure ste file dei patronati non erano proprio file, Parenzo, diciamo la verità, dai, su. Chi è andato in fila al patronato è un povero cretino che va internato. Ma è poveraccio, magari è un anziano che si è trovato lì con la lettera, che vuol dire vabbè, povero cretino, dai, no, su. Povero uno che è andato lì. Senti, sulla vicenda Giannino voglio mettere solo questo, voglio mettere solo questo perché lo devo mettere per forza, poi torneremo, per carità, non è che oggi non ne parliamo, lo dico subito, ne parliamo. Mi hanno massacrato, sei uno sciagallo, sciagallo sarà tua sorella. E poi comunque ogni tanto essere sciagalli, ma guarda che gli sciagalli non è che fanno tutto... Non è che fanno solo male, Beh, mangiano le carcasse degli animali morti. Vabbè, cioè. Ma non ti preoccupare. Verdone, sentiamo. Le donne, le more, le bionde. Oh, scusa, l'avvocato Pignacorelli sta qua? Sei sicuro che cerchi l'avvocato? Che senso sono sicuro? Volevo sapere se cercavi l'avvocato, il maestro, il medico o il veterinario. Perché sono quattro fratelli? No, io cerco l'avvocato e c'è pure urgenza di parlare. Cioè, dimmi dove sta? Al primo piano, attenta, non cascare. Primo piano? I gradini sono fragili. Che mi baci alla spagnola, cos'è un bacio alla spagnola? Io sono la zia. E io sono Oscar Pettinari. E io sono la mamma. Adesso sta di là in camera da letto col dottore. Col dottore? Ma allora sta male sul serio? Ma che è una cosa grave? No, ho avuto la solita crisi. No, scusi signor, a me mi sta a scoppiare il cervello, ma che so ste crisi che c'è a suo figlio, no? Mi spieghi? Purtroppo gli è successo anche quando ha smesso di fare il veterinario. Eh sì, ogni volta che cambia mestiere non riconosce più i suoi clienti. Ma perché? Pure veterinario? Eh sì, ha sostituito per 3 mesi il veterinario di Narni, ha dato la purga a 600 pecore. Sono morte tutte le francese. E siamo qui 800 24 00 24. Parenzo, sei morto, avanti, dammi dello sciagallo ancora, dammelo, avanti, continua. No, beh, è curioso, ecco. Aspetta, fermo, stai fermo, stai fermo. È con noi Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, primario San Raffaele. Buonasera. Buonasera. Ciao Alberto, come stai? Ciao, bene Giuseppe. Allora, dimmi subito com'è la situazione di Berlusconi, è una cosa veramente grave. Io l'ho visto, non l'ho visto benissimo, l'altro poco fa, devo dirti la verità. Abbiamo visto a Canale 5 il suo intervento, sì, insomma, sì. Pronunciava le parole in maniera lenta, sembrava molto molto stanco soprattutto. Che gli avete dato? Ma che gli avete dato? No. Niente, che gli hanno dato? Beh, sicuramente non si è risparmiato negli ultimi 2 mesi, quindi sicuramente sono tutti stanchi i leader, no? Però non si è risparmiato e quindi alla fine la paghi, quindi ci può essere anche alla fine appunto una situazione come quella che avete potuto vedere, ecco. Però, voglio dire, il fatto, questa congiuntivite di cui lui stesso ha parlato, no? Ci puoi dire esattamente che cosa, tu l'hai visitato quando l'ultima allora, volta? Allora senti, quando si parla di Berlusconi, no, poi si fanno tutta una serie di illazioni. No, no, ma io te lo dico No, ma ti spiego, se ne dicono di tutti i colori, no? In effetti sì, è qualche tempo che non sta bene, che accusa dei disturbi visivi, sì. E qualche giorno fa effettivamente si è manifestata una congiuntivite, una fastidiosissima congiuntivite, con anche associata una nevralgia, per cui è stato visto anche realmente sofferente, è stato stoico, perché sì, veramente aveva anche una componente nevralgica molto importante. Chi l'ha visitato, gli specialisti hanno detto che in situazioni analoghe appunto non sarebbe possibile riuscire a fare quello che ha fatto lui. Sì, perché sei convinto, no? No, sono dicendo la verità. No, assolutamente sono convinto, perché beh, sei il medico, non è che racconti delle stupidaggini su Berlusconi, no, per carità, ma non stiamo parlando di politica qui, non stiamo parlando di politica. No, voglio chiederti una cosa, quando tu dici è tanto tempo, è qualche tempo che accusa dei problemi visivi, che vuol dire? Che vuol dire c'è una cosa che prescinde dalla congiuntivite, cioè ha qualche problema che prescinde dalla congiuntivite? Allora, no, ma niente di strano, cioè qualche giorno fa il problema era appunto un problema di tipo infiammatorio con associata alla nevralgia. Sì. Il fatto di oggi è un fatto nuovo, è un fatto che oggi si è confermato, che era già risultato evidente a un primo esame appunto eseguito, come hai detto, qualche giorno fa al San Raffaele, e oggi appunto confermato, conclamato, ed è il distacco posteriore del vitreo. Adesso non dobbiamo appunto, ma questo che comporta dal punto di vista, no certo, non è che dobbiamo entrare nei dettagli, distacco posteriore del vitreo cosa comporta? Anche una difficoltà di movimento? Il distacco posteriore del vitreo è qualcosa che il vitreo è una struttura endoculare che contiene del gel, il cosiddetto gel vitreale, no? Si può distaccare dalla retina, che è la struttura molto importante che tutti noi conosciamo, ed è una cosa fisiologica che può capitare. Ma può portare alla cecità? No, assolutamente. Beh, chiaro, se uno si trascura, se uno non fa quello che gli viene detto, l'occhio è una struttura estremamente delicata, per cui le conseguenze possono essere inimmaginabili. Però, per quanto riguarda appunto la terapia corretta, qual è? Per cercare appunto di consolidare questo distacco che a un certo punto si controlla, la cosa fondamentale è quella appunto di evitare dei movimenti, dei traumatismi, l'affaticamento. Riposo totale. Praticamente stare tranquillo, per cui io dolorosamente, sottolineo dolorosamente, mi sono dovuto imporre, perché con il presidente a un certo punto lui non voleva importi, assolutamente, lui è legatissimo a Napoli ed è stata per lui veramente una tragedia, perché sentiva il dovere, sentiva di essere atteso. Senti, ma dopo le elezioni, che cosa consiglia Berlusconi? C'è un riposo assoluto, totale, tornare in Kenya, rilassarsi totalmente? Speriamo che dopo le elezioni possa dare seguito e raccogliere i frutti di quello che è stato il grosso sforzo. Speriamo che non debba andare in Kenya, no? Vabbè, d'accordo, al di là di questo, adesso lasciamo perdere. Tu, tra l'altro, il medico personale di Berlusconi, vota Berlusconi? Sì. Te l'ho già detto che non posso dirtelo. Come non puoi dirlo? Il medico personale di Berlusconi vota Berlusconi, su, non puoi non votare Berlusconi. Te lo posso anche dire, cioè voglio dire, io al di là dell'affetto personale voti Berlusconi? Sono convinto dell'uomo, perché io voto Berlusconi, come ho sempre votato Berlusconi. Beh, Parenzo, immagino che tu sei curioso di sapere cosa ha preso allora durante tutta questa campagna elettorale, perché è sembrata una campagna elettorale di Berlusconi, cioè, come se fosse un giovincello, no? Non sicuramente 70... ha fatto una dieta strepitosa che il dottor Zangrillo gli ha messo, perché anche, voglio dire, magari ha bevuto del succo di carota con la mela per tonificare. Dell'aloe, non so, una cosa di questo che tipo. Ha fatto? Che ha preso? È un uomo veramente molto naturale da questo punto ci di vista. Ci dia la ricetta, su, la pozione per le elezioni. Ma lui è così naturalmente, ma veramente è straordinario in modo naturale. Ti assicuro veramente che chi lo ha seguito, e spesso mi è toccato farlo. Sì, che faceva? Iniziava la giornata alle 5:30, 6 del mattino, e arriva come recentemente all'1, alle 2 di notte. Cioè, quante no? ore ha dormito durante la campagna elettorale? Non credo più di 2-3 ore per notte. Più di 2-3 ore per notte? Ma come si fa a 76 anni? Alberto, ma digli qualcosa, basta, no? È così. Ma tu gli dici basta, non gli dici basta con la politica? Dimmelo, qualche volta glielo dici, basta con la politica. No, io gli dico basta con questa vita, non gli dico basta con la politica. Basta con questa vita, ma è inutile. Ma è inutile, gli dici basta con questa vita, ma è inutile. Ma cosa fa in piedi fino alle 2 del mattino? No, ma poi il bello è che lui ti dice di sì. Bacia alla francese. Hai ragione. Poi però appunto viene preso da tutti gli eventi, per cui io gli dico basta e lui dice di no. Vabbè, ma comunque è una cosa pazzesca. Basta, dice di no. Ho capito, ma per il post digli basta, adesso tanto non vincerà molto probabilmente, adesso diciamocelo tra di noi, non vincerà. Vabbè, d'accordo, vabbè, quello è un altro discorso. Però ma la fidanzata l'ha seguito in questi giorni? Non mi occupo di quello. Non mi occupo di ma quello. L'ha migliorato fisicamente, l'ha migliorato la fidanzata? Ma che ne so io. E che ne so, dal punto di vista fisico, cioè lo trovi più da quando sei fidanzato, più anche fisico. La campagna elettorale che credo rovini tutti i leader, no? Ho sentito, no? Ah, che rovina credo, tutti i leader. Ha preso 20 kg, Bersani non lo come so, no? Sì, mi sembra sì. Abbastanza in forma. Lui Bersani ne in forma, 4, infatti. 5, sì, Bersani in forma, incredibile. Poi c'è qualcuno che si vede meno, poi ci sono anche degli aspetti costituzionali che bene o male emergono. Cioè, qual è quello che vedi meglio? Tu che sei il medico di Berlusconi, qual è l'altro leader che vedi meglio dal punto di vista fisico? Bersani è, mi sembra in grande forma fisica, no? Crosetto è sfatto totalmente. Ingroia come lo vedi? Ti vedo uguale a se stesso. No, uguale. Chi vedi dal punto di vista fisico migliorato della campagna elettorale o peggiorato? Ingroia, beh, uguale. Cioè, sai che non sono poco abituato dalle valutazioni maschili. Però sì, Ingroia pure mi sembra uguale. Mi sembra, al di là di tutto, appunto, mi sembra simpatico. Non so se sono influenzato dalle imitazioni di Crozza che trovo geniali. Dopodiché, Fini e Casini non li seguo. Poi chi mi è capitato a vedere? Ho visto piuttosto sciupato, rabbuiato un po' il presidente Monti. Monti, fisicamente, come l'hai visto fisicamente? Ma io credo che appunto sia veramente un tour de force terribile la campagna elettorale, perché è inumano, almeno per come viene svolta in Italia. Mai più, di a Berlusconi, mai più una campagna elettorale, basta. Cioè, la prossima campagna elettorale è capace che crepi. Io credo che non può più farne un'altra, dai, su, dillo. L'abbia già detto che è stato forzato a fare questa, per cui credo che non abbia nessuna intenzione, anche se dovesse ritornare a votare. Però c'è un qualcosa che l'ha aiutato a reggere questa campagna elettorale dal punto di vista medico, c'è qualcosa, la determinazione, la punturina, non fa nessuna punturina. Tu sai che ogni diciamo sportivo e chi fa la campagna elettorale come se facesse dell'esercizio fisico agonistico accumula le endorfine che aumentano il livello di tensione, che aumentano la tensione e carico molla, e che si tengono in piedi, e quindi praticamente quello che si deve temere dopo, ma questo è per tutti, quindi questo, anche per questo si può generalizzare, che è il calo di tensione, come quando tu vai a dare un esame all'università che ti ha stressato, capito? Ti sei dovuto preparare, dopo comunque va dall'esito dell'esame, a un certo punto molli, cioè domani tu sei là, domani sei lì da Berlusconi, perché domani ci sarà il silenzio elettorale, domani c'è il calo di tensione possibile. No, il calo di tensione ci sarà da martedì. Già, adesso c'è l'adrenalina per i risultati, certo. Esatto, Senti, secondo te quella di Giannino è una patologia, tu da medico, come la puoi definire questa di Giannino? Il mentire? Io non, per l'amor di Dio, non mi posso permettere, ecco, certo che è estremamente curioso, ma la cosa secondo me è più straordinaria, no? Perché io posso anche capire che ci possono essere delle ragioni per esagerare sul titolo di studio, no? Anche se è assolutamente deprecabile. Però quello che mi ha colpito è il fatto di aver detto di aver partecipato allo Zecchino d'Oro. Anche a me. Sì, secondo anche me quello appartiene alla sfera del patologico. Sì. Patologia, è una patologia. Sì, perché è una cosa non petita, quindi francamente. No, ma effettivamente quello è molto grave. No, ma che stai dicendo tu, Parenzo? Anche rispetto alla nipote di Mubarak, questo è molto più grave. Indubbiamente lo Zecchino d'Oro è capito. Ma sei un imbecille. Arrestate Mago Zurlì! Arrestatelo subito, signor Zurlì! Ma dai. La gente poi no, cerca sempre queste comparazioni che sono assolutamente lontane, no? Senti, però dimmi la verità: la battuta che ha fatto con la signora Bruno, gli hai detto pure tu che sei il suo medico, ma sei proprio fissato? Non gli hai detto sei fissato con queste battute alle donne? Ma guarda, veramente adesso poi uno la prende come la vuole prendere. Non è una malattia, è un po' una malattia quella di fare le battute. Ma è un modo di fare, è un modo, diciamo, molto personale di essere galante. Ecco, poi ovviamente viene interpretato in modo malevolo, per cui poi a posteriori, 48 ore dopo, ci sono delle letture che sono poco aderenti alla realtà. Ma è poco aderenti, quello è successo. Ma gli ha detto a quella: vieni quante volte vieni, che c'è, non è che c'è possibilità di equivocare. Dai. Il presidente è. Ma tu ti sei messo a ridere o hai pensato? No, non mi sono messo a ridere, anche perché non l'ho vista. Cioè, quando l'hai vista, ti sei messo a ridere, a scherzare, come è giusto? Ma no, mi sono preoccupato, perché conoscendo il contesto ho immaginato che sarebbe capitato quello che poi è capitato. Credo che anche tu la pensi come senti me. Ma qual è la medicina che gli consigli da domani in poi, da martedì in poi? Ma non ha bisogno di medicina. Ma sì, dai, una medicina, una pozione, dai, una pozione, qualcosa, no, di qual è il segreto. Non ha bisogno di nulla, veramente. Non ha bisogno di nulla. Superman. Con tutto il rispetto, non sono Scapagnini, quindi sono molto aderente alla realtà. Ecco, sono estremamente. Con tutto il rispetto. Nel senso che sono aderente alla realtà, fotografo la realtà e sono, sorpreso dal constatare che un uomo di 76 anni possa avere questo vigore straordinario. Che gli consente di fare delle cose che uno della mia età, quindi una ventina d'anni di meno, non riuscirebbe assolutamente a sostenere. Ma cosa potrebbe fare secondo te Berlusconi? Come ha fatto la campagna elettorale? Potrebbe fare, che ne so, il Tour de France, il Giro d'Italia? Ma potrebbe attraversare a nuoto lo stretto come ha fatto Grillo, secondo te? Io credo di sì, perché lui è strutturalmente adeguato, nel senso che ha un fisico adeguato, ha delle spalle, insomma, è un ex sportivo, quindi strutturalmente potrebbe farlo assolutamente. Se si mettesse in forma, sì, certo. Se si mettesse in forma potrebbe farlo. Grillo non era in forma, Grillo. Voglio dire, si metti le pinne e lo fa chiunque. Vabbè. Faccia stragalla. Alberto, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio a voi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. Beh, certo, se uno voleva scegliersi un testimonial come ha fatto Monti in questi giorni, beh, almeno fallo esporre un po', no? Fallo parlare in maniera, ma che ne so, inventati qualcosa. Buffon, il portiere della nazionale: ho scelto Monti per istinto, quello che spesso mi ha salvato quando paro in porta. Poi sembrava che leggesse una sorta di copione, abbassava gli occhi su un foglietto, secondo me. Le mie sono valutazioni, insomma, personali, dettate dall'istinto. Un istinto che spesso magari in campo mi ha salvato per quello che è il mio lavoro, e che nella vita privata difficilmente, ecco, mi ha fatto prendere delle cantonate quando dovevo valutare il peso specifico delle persone, no? Allora, vi posso assicurare, cari ascoltatori della Zanzara, cosa è accaduto, cosa diavolo è accaduto alle 18, tra le 18 e le 18:30, Canale 5, trasmissione di Barbara D'Urso, Parenzo? Sì. Berlusconi a ruota libera. Sa va a San Dir. Par condicio, dove sei? Agcom, dove sei? Invece di stare lì a fare tic-toc, tic-toc, per minuto e quello paga, dici, ma no? Tanto, ma sì, che gli frega. Aspetta, vabbè, ma chi se ne frega di questo? Domanda della D'Urso. Berlusconi, presidente, veramente un secondo per rispondere. 4 minuti di intervento, 4 di seguito, 4 minuti senza interruzioni, alla fine pubblicità, straordinario. Senti. Mi dice in un secondo, fra poco si chiude, no, la campagna elettorale, una cosa che non è riuscita a dire ancora agli italiani in questa campagna elettorale? La domanda fenomenale, eh? Ho parlato un po' e quindi di cose ne ho dette tante, ma guardi, era sofferente Berlusconi, eh? La cosa che non sono riuscito a dire completamente è proprio che votando, lo sentite impastato, devono pensare certamente al loro interesse, è importantissimo, quindi l'interesse. Ma come non l'hai detto? Hai mandato la busta con l'IMU, viene tutto con noi che vogliamo diminuire le tasse sia sulle famiglie che sulle imprese, ma l'hai detto sempre, non è una cosa nuova. I Monti sono legati da questo convincimento che non si può fare niente se non aumentando le tasse. D'Urso? Sono anche legate dall'amore per il potere e sono legate, David, D'Urso, dove sei? Da un'ostilità verso la libertà dei cittadini. Ed è proprio questo che devono considerare. Ma dov'è? Che la politica della sinistra, D'Urso, è tutta detta da un'invidia mai sopita nei confronti. Ah, l'invidia, sì. Una cosa nuova. Col sacrificio, magari col rischio imprenditoriale, D'Urso, è riuscito a costruirsi una situazione di benessere per sé. Ma chiamala anche tu, David. Barbara! E quindi la sinistra. Ma c'è l'intervistatore, la direttrice? Ma che ne so? C'è D'Urso? Bisogna punire. Ma dai, sarà chi, uscita un secondo attimo. Loro, D'Urso, facendo cose non giuste, è riuscito a conquistarsi il benessere. Barbara! È proprio la mentalità che parte oltretutto D'Urso, da una diversa sei, considerazione della condizione dei cittadini nei confronti dello Stato. Questo è un soliloquio. Il Partito Comunista. D'Urso, da sempre, Partito Comunista. D'Urso. Barbara! Lo Stato deve avere i cittadini al suo servizio. Noi liberali pensiamo che invece... Noi liberali pensiamo? Sia... Ma cosa fa Barbara? D'Urso! Pronto! ...dei cittadini. E c'è una grande differenza in queste due concezioni. Secondo noi, i diritti dei cittadini, tra cui il diritto alla libertà... D'Urso! Pronto! Viene prima dello Stato. Prima dello Stato. Anteriore. Ed è esso che giustifica l'esistenza. Signora D'Urso, quindi bussa un po', bussa un po', David. Tanto meno permesso, D'Urso, ma lei che è? La concezione dello Stato, boh, tra quello della sinistra, c'è nessuno, è lo Stato che concede graziosamente D'Urso i diritti ai cittadini. Vabbè, è andata via. Quando lo Stato vuole. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani, basta con l'uomo solo al comando, la nostra forza è il popolo delle primarie. Sul palco Nanni Moretti, spero che lunedì festeggeremo la liberazione del paese. Alfano chiude a Napoli, Berlusconi fermato da un problema agli occhi, manda un video. Chi vota Grillo aiuta Bersani, come nel 94, noi o i comunisti. Monti, il paese può rinascere, la recessione è finita, abbiamo evitato di fare la fine della Grecia, ma con i 5 Stelle il rischio può tornare. Ultimo comizio di Grillo a San Giovanni, già ora grande affluenza, attenzione con i giornalisti, i carabinieri per cacciare la stampa italiana dal palco. Non c'è alcun accordo fiscale, non ci sarà prima di 2 anni, così la Svizzera smentisce Berlusconi sulle risorse per i rimborsi dell'IMU. Bruxelles, Europa ancora in recessione, allarmi di disoccupazione per l'Italia, salirà fino al 2014, il commissario Rehn, non necessarie nuove manovre. Il giudice di Pretoria conferma l'accusa di omicidio premeditato, ma concede a Pistorius la libertà su cauzione. Pesanti critiche sulla polizia. Zanza, zanza, zanzare, gli treveti in montagna, in collina, in campagna. Come al Milan, ragazzi, al Milan chi ci va? Oscar Giannino, che c'ha un master in allenatori a Coverciano, preso ai tempi di Bearzot, c'era. Vabbè, signori, vi salutiamo. Senti questa, Berlusconi, se vinco e non do i soldi dell'IMU agli italiani, dunque già mette le mani avanti, mi facciano causa e poi li chiedano a me che glieli do io. Ragazzi, è uno spettacolo infinito. Bersani, che mi ha dato dell'imbroglione per far credere che la restituzione non fosse una cosa certa, invece che certissima come è. Tra l'altro, osservo, se vincendo non operassimo la restituzione dell'IMU, ogni italiano con in mano quella mia lettera impegnativa e formale potrà farmi causa e chiedere i suoi soldi direttamente a me. Oh, ragazzi, guardate che è preoccupante questa cosa della voce, eh? Hai sentito com'è? La bocca impastata. È impastatissima. Ma tu che stasera che hai? Non vai all'attacco contro di me, come mai, David? No, aspetto che tu cominci a mandare inebriato ed eccitato come un attore porno prima della sua scena. Franco da Pistoia, ma forse Grillo parla alle 9, poi io me ne fotto. Che tu mandi Franco da Pistoia, dai, incalzati. Radio Casaleggio. Ma sarà la tua Radio Casaleggio. E poi aspetta un attimo. Non ti sei indignato per questa cosa della stampa italiana esclusa dal palco? L'ho detto prima. Come se il palco fosse. No, se uno non sta sul palco non può seguire. Ma la ragione è semplice: siccome il signor Grillo vuole mandare tutto in streaming, tutto in rete, costringe tutti ad andare nel suo sito per vederlo e lui continua a guadagnare. Ma che stai a dire? Ma è una puttanata questa, dai. Franco da Pistoia, pronto? Buonasera, dica. Pronto? Vada. Io sono un ascoltatore quasi giornaliero, sì, della sua trasmissione. Bene, ha la voce dico. Come Berlusconi. Questa. Sì, ha la voce come Berlusconi, è vero. Allora, però, Franco, dica. Lo sa che la sua campagna pro Berlusconi. Ma quale campagna pro Berlusconi? Meno male. Pro Grillo, è una cosa vergognosa. Ma quale campagna pro Berlusconi? Ma che sta al limite della prostituzione. Sì, sono una zoccola. Lei ha fatto il linciaggio di Giannino. Ma quale linciaggio? Dai, su. Ha fatto il linciaggio di Giannino perché le voti a Berlusconi. Ma quando mai? Ma lei è pazzo. Per qualche bugia. E no, perché no, non parla della falsa testimonianza di Berlusconi che è stato condannato in tribunale? Ma come non ne parlo? Che vuol dire? Ne abbiamo parlato, non l'abbiamo detto. Parlato. Ma che sta dicendo? Perché non parla che Berlusconi con una condanna a 4 anni è unico caso al mondo? Sì. Poi? Si candida per guidare un paese. Va bene, Franco, io occidentale. Comunque ho fatto una confessione, sì, è vero, sono una prostituta, come ha detto lei. Allora? No, è al limite della prostituzione. No, io dico della prostituzione proprio, no, al limite, proprio in piena prostituzione. Lei si è meritato con questa campagna elettorale un posto. Dove? O a Libero, o al giornale, o a Mediaset. Bene. Ma se deve far così per fare il giornalista, credo che sia uno scandalo. Uno scandalo, è vomitevole. Vomitevole. Fa schifo. Perché non può? Certo ma ha già vomitato? Lei fa schifo. Ma lei ha già vomitato? Finta di dargli conto, ma delle cose serie non parla. Ma lei ha vomitato o no? Lei già? Ma lei, perché certo che vomita, sentire lei. Ora e che ne so, ma non sento un po' puzza. Lo sa perché? Per come mai non parla dell'Imo che gli restituisce? Ma vada, ma l'abbiamo appena parlato. Anche a lei, mentre ci sono disabili. Ma ne abbiamo appena parlato. Soldi. Ci sono disabili senza soldi, sì, certo. E se c'ha 2000 anni da dare in lo Stato, deve pensare prima a quelli, non Franco, a me, a lei che possiamo pagarla l'Imo. Franco, ha capito? Vada certo fuori. Non ne parla lei. Però vada sul balcone a vomitare, non dentro casa che fa puzza dopo. No, ma guardi che lei l'altra volta mi ha mandato l'ambulanza. Ma che ne so, adesso, se vuole, se vuole io la mando pure stasera. Sì, no, ma mi hanno detto, ma chi ce l'ha mandato? Allora mi mandi quelli che ce l'hanno mandato, perché forse ne hanno bisogno loro. Ma perché è arrivata l'ambulanza? È arrivata l'ambulanza e mi hanno detto, ma lei non ha nulla. Lei è a posto. Beh, sì, io una controllatina, caro Davide, la farei, no? Sì, subito. Ha detto... Mi mandi chi ce l'ha mandato. No, guardi, io una controllatina la farei. Alberto da Milano, grazie. No, aspetta, c'è Francesco da Napoli. Francesco? Sì, buonasera. Vada, dica. Siete due grandi. Io volevo intervenire per quanto riguarda la delusione di Oscar Giannino, del signor Oscar Giannino, perché a questo punto devo dire che... È uno dei delusi da Giannino, lei? Prego? È uno dei delusi da Giannino, lei? Ma delusissimo, non deluso. Cioè, guardi, ero così, seguivo tutte le mattine la sua trasmissione, perché per me e che è successo? Era bello ascoltarlo. E poi che è successo? Soprattutto quando faceva degli interventi anche per televisione, magari, che ne so, Porta a Porta o le altre. E che è successo adesso? Mi spieghi? Vabbè, che è successo? Che è successo? Che a questo punto metto in dubbio anche chi ha la laurea. Pure questo è vero. Una laurea. No, veramente questo deve subito metterlo da parte, perché due lauree, nessuna delle due, per cui... Quindi non ha laurea. Poi no, c'è il signor Giannino. Ma lei non segue nulla, Francesco? Ma no, io non è una questione che non seguo nulla. Si aggiorni, che fa di mestiere? Ma non è affatto... Aspetta, non è questa la questione, che io non seguo nulla. La questione è che se lui dice di avere due lauree, poi ogni mattina quando veniva chiamato per radio, veniva, si definiva, no, chiunque lo chiamava dottore, cioè se a me mi chiamano dottore, cioè io dico che non sono dottore, in modo più assoluto. Cioè lui comunque ostentava sta cosa, continuava praticamente ad accettare questo stato odioso, dai, cioè è proprio giù, mi ha deluso proprio tantissimo. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. La matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Non vale neanche più la pena offenderli, cari amici. Non vale neanche la pena. È vilipendio di cadavere. Sono già... Arrivano dall'aldilà questi occhi smorti. Queste parole se le senti che arrivano dall'altra democrazia. È finita. È finita e si aprirà qualcosa di sconvolgente. Sono morti parlare di questa gente, ma guardate i manifesti, sono annunci funebri, sono grigi, guardateli fissi, guardateli un attimo in loro televisioni, sono dentro questi studi con i loro dipendenti giornalisti, oppure sono dentro dei teatri ormai vuoti, oppure portano pullman di pensionati a fare il comizio, sono vecchi attori che sbavano e che devono fare in teatro la parte dell'attore giovane. Bisognerebbe curarli, avere uno psichiatra che gli vada vicino e che li accarezzi e gli dica: è finita, è finita, è finita. Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Sono arrabbiatissima con Cruciani, che è stato una iena per diffamare Giovannino, uno scandalo veramente, è arrogante, brutto, cattivo. Perché ancora lo tenete su Rai 24? Questo non lo capisco. Veramente dispregevole proprio. Io provo un disprezzo per questo Giuseppe Cruciani, che non vale niente, è soltanto volgare. Io sono furibonda con il Cruciani, che continua a dare del cretino a Parenzo. Io, se fossi Parenzo, lo mando a fanculo in diretta, va bene? Certi personaggi che hanno una carica dovrebbero avere anche un pochino più di rispetto delle persone che telefonano. In più Parenzo, glielo ripeto, dovrebbe mandarlo a fanculo mille volte, almeno lo ripaghi di tutti i cretini che le dà. Buonasera. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00 24. C'è consenso, sei isolato, come direbbe Grillo, alza le mani, siamo venuti a prenderti, alza le mani, come direbbe il tuo amichetto. Ma quale amico? Ma tu il confondi tuo amichetto di Genova, tu che confondi Piazza San Giovanni, tu confondi, amico mio, tu confondi due cose, amico, tu confondi amico. Due cose, io non, ovviamente non posso dire nulla perché ancora siamo coperti dalla par condicio. Io dico quello che mi pare, adesso dico per chi voto, non me ne frega niente. Sì, dillo, per chi... Sì, sì. Allora, no, ma la cosa fondamentale è questa. Il voto non è un timbro in testa, ma non è un timbro in testa. Il voto non è un timbro che ti porti appresso. Non è che se uno vota PDL è berlusconiano, se uno vota PD è de sinistra. No, però è una visione del mondo. Ma non è vero, ma no. Il voto può essere deciso anche in pochi secondi, ci puoi ripensare quando entri in cabina elettorale, puoi pentirti il giorno dopo, è così, io lo interpreto così, l'ho sempre interpretato così, dunque non mi rompete le scatole, non classificate, non bollate le persone. Poi ognuno, almeno io prendo dalle persone che voto anche delle piccole cose, non prendo tutto, prendo delle piccole cose, le prendo, voto per quello, magari ci ripenso dopo sei mesi o dopo mezzo secondo. Ma ognuno vota come gli pare, oh! Dai, Alberto da Milano, 800 24 00 24. Alberto. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Non volevo portarvi fuori tema, volevo parlare. Ma non della c'è tema, vada. Il tema è la vita. Adozioni da parte delle coppie gay. Oh no, l'adozione no, basta, stasera non ne voglio parlare. Vabbè, allora vi do un'altra chicca. Un'altra chicca, sì. Vabbè, era in Argentina, Buenos Aires, è tappezzata, sì, di manifesti elettorali pagati probabilmente con i nostri soldi pubblici, anzi direi da sicuramente. Chi? Da uno dei nostri candidati premier, con sotto anche un paio di nomi, se volete vi mando anche le foto. Ma chi è il candidato? Con Italia por Italia, Pierluigi Bersani premier. Con Italia por Italia, Pierluigi Bersani premier. E vabbè, si è pagato col finanziamento pubblico, oppure l'hanno pagato il Partito Democratico in America Latina, o dov'è, in Argentina, ma chi se ne frega? Ma voi vedete i nostri le affissioni in Italia, avete mai visto un candidato di un partito per le elezioni in Francia, in Germania, in Stati Uniti, in Argentina? Perché i nostri soldi vanno là? Ma che ne so, ma che domanda è? Ma sarà il Partito Democratico? Ma c'è il finanziamento pubblico? Saranno quei soldi lì, sì, del Partito Democratico, sì, in Argentina? Certo. Ma comunque, per me il finanziamento... Non vi interessa? No, non ci interessa. Il finanziamento pubblico da tagliare, via, subito, via. Spazzare via il finanziamento pubblico. Un altro Alberto da Milano. Buonasera. Ma Grillo alle 9, ma Parenzo, attrezzati per fare Grillo, va, perché sono le 9, è troppo tardi. Alberto. Ma puoi comunque mandare nel tuo stile le voci dalla piazza, puoi com'è che fummo cazziati una volta quando facevi che cosa? Non puoi più farlo, ti ricordi? No, sì, quando facevo l'imitazione di Grillo, quando c'era il mio amico carissimo candidato Don Bassei, adesso per Monti al Senato. Sì. Mio amico. E una volta ci fu questo divertissement che facemmo, in sì. cui io facevo Beppe Grillo che diceva, perché c'era, voi alla Confindustria ci avete, siete morti, morti, finiti, c'è quel signore che anche nel nome che si chiama Bomba 6, un nome violento, violento, no, è il nome semplicemente, il signore è Bomba 6, un nome violento, finiti, morti, a fanculo, a casa, a casa. Tanto siete finiti voi, finiti! Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano. Andate a fanculo! Allora c'è Alberto da Milano. Alberto, no, no. Un altro Alberto da Milano, dica. Allora, io alcuni mesi fa, innamorato di Giannino radiofonicamente, ho acquistato un dominio, ho sì. scritto giannino4president.it sperando di fare qualcosa sì. di buono. Sì. Ho creato un sito web, gliel'ho fatto sapere, ho fatto molti iscritti e adesso mi ha ucciso con questa... cioè lei si sente, tradito? Per danni e voterò qualcun altro. Posso dire chi voto? Sì, sì, lei può dire quello che vuole, ma scusi un attimo, se non ho capito male, lei vuole citare per danni? Sì, logicamente, certo, ho speso 870 euro per fare un sito, gliel'ho offerto, c'è un dominio, esiste il sito oscargiannino4president.it, poi vengono fuori queste storie che sono uscite, sono deluso e anche danneggiato, certamente non lo farò, lo dico tanto per... No, non ho capito. Sito, gliel'ho offerto, non mi ha mai neanche risposto. Vabbè, quelli sono affari suoi, scusi. Obbligato a vedere il sito che ha fatto il signor Bobbio. Non è che se lei ha preso un sito, Giannino for President, l'ha acquistato per 870 euro. No, ma io volevo offrirglielo a lui per usarlo. Vabbè, quello non l'ha voluto, e vabbè, niente, pazienza. Niente di male. Lei voleva fare l'affare. Lei voleva fare l'affare in realtà. Esatto. Lei ci voleva guadagnare qualche soldo, dica la verità. Se andava bene, certo. Ah, e allora che vuole? Allora, protesta pure. Ma adesso vengo là e gli do due schiaffi, Alberto. Se lei adesso fa il sito, scusi, perché se lei mi permette di fare il sito www.davidparezzo.it sì. e poi me lo vuole... Ma io la mando a quel paese nel giro di 40 secondi, se lei fa un'operazione di questo tipo. Ha capito? Ruggisce tutta la notte. È con noi il successore. Secondo me sarà il successore. No. Come no? Ma che cos'è qua? Cos'è? Sorpresa, mi sono portato la clac. Ma cos'è? Boldrin si è portato la... un comizio per voi. Cioè, sapete il comizio di chiusura. Boldrin! Capitani, ti vedono tutti da Padova. Cioè, avete messo in streaming il sito della Zanzara, il sito di Radio 24? Esatto. Ah, una cosa pazzesca, dai, su. Cioè, ma Padova, sto facendo il comizio di chiusura per il Veneto e siccome volevo mantenere la parola che ci sarei stato... Ah, ma c'hai fregato, diciamo la verità, c'hai un po' fregato. No, l'avevo fregato, davvero, anche noi siamo partiti un po' in ritardo. Sì. E quindi non riuscivo a starci e ho detto o cancello e poi Cruciani dice che sono un coniglio, oppure facciamo così, ma vabbè. Fastidio, Allora fate l'applauso al successore di Giannino, Michele Boldrin, fare per fermare i declini, applaudite, piazza! Lo vedi che ti incoronano, Michele, ti incoronano! Amici di fare per fermare il declino! Aspetta, Michele! Con me! Portaci al governo! Oh, Boldrin, portaci al governo! Silvia Enrico? Pronto? Sì, aspetta! Dobbiamo coordinare il tutto, adesso mi metto qua a coordinare il tutto. Allora, Michele, parlo io e quando devi parlare tu ti dico di parlare, sennò è un casino, la gente non capisce, c'è gente che gira in macchina, pieni di ascoltatori impazziti per questa cosa. Allora, la cosa è molto semplice. Sì, lo so che avete un leader, eccetera, eccetera, però diciamo la verità, cioè, il grande mattatore televisivo sei tu, Michele, è inutile stare qui a prenderci in giro, su, dai. Vabbè. Cioè, c'è anche il carisma, c'è anche il carisma. Allora, prima domanda un po' scomoda. Michele, ma mai guardato, sono grasso, 7 kg in più, i capelli lunghi. Ma Berlusconi non l'hai visto, scusa, che c'ha? Cioè, non mi... Allora, Berlusconi c'ha un target di mercato diverso dal mio, lui cerca di farsi eleggere da quelli di bassa qualità. Io voglio i voti della gente che lavora. Cioè, tu vuoi i voti dei magri, non ho capito, vuoi i voti della gente magra? No, voglio i voti della gente di qualità, quelli che sanno scegliere, quelli che sanno capire la differenza tra uno brutto come me e poco. Ma no, ma non è vero, ma poi dicono che c'è un sacco di fan donne. È vero, Piazza, che ha un sacco di fan donne, Boldrin? Piazza? Uomini, a guardare la sala c'è più uomini che donne. Allora, Michele Boldrin, fare per fermare il declino, economista. Subito una prima cosa, Boldrin. Noi ci siamo sentiti lunedì quando era scoppiato il caso Giannino. Se non prendete il 4%, dimmi la verità, Boldrin, se non prendete il 4%, però me la devi dire chiara questa cosa, secca. È colpa di Giannino, sì o no? No. Ma come no? No? Dai, su, come no, no, davvero no. No. No, perché aspetta, no, Giuseppe, dai. Fermi. Ragiona, ma ragiona. Ragiono, sì, ragiono, certo. Cosa vuol dire è colpa di Giannino? Cioè, vabbè, il colpa che esiste, vabbè, se non fosse esistito lui, non ci avremmo nemmeno provato, perché lui alla fine avrà fatto anche gli errori che ha fatto, ma anche ha fatto il lavoro che ha fatto. Le piazze lui le riempie molto più di me, lui è molto più bravo di me a farle e a dirle certe cose, quindi su via. Sì, però l'essere umano bisogna prendere i più e anche i meno. Se io faccio la somma algebrica dei più e meno, mi viene fuori un più. Quindi se lo tolgo mi viene fuori un meno, giusto? Sì, però tu sei il simbolo, ce lo siamo già detti lunedì, poi tu non sapevi molte cose, eri in India. Tu sei il simbolo della meritocrazia, vai nei talk show a dire, a sbeffeggiare quelli che non sono competenti, a dire hanno detto un sacco di bugie negli ultimi 20 anni, tu moltissimi politici raccontano bugie. E insomma, qui si è capito che c'è uno che ha detto un sacco di bugie, un sacco di fragnacce sulla sua vita, millantando titoli di studio che non ha. Dovresti essere il primo incazzato come una belva, o no? Beh, guarda, ma guarda, sarà no, ti spiego perché. Non fischiate lì, non fischiate, che sto dicendo la verità, la realtà. Non fischiate, no, fate quello che volete. Fate parlare pure a me. Dimmi. Cioè, guarda, che c'è un fatto obiettivo. Alla fine le analisi che lui fa, le cose di economia in particolare che lui che Oscar ha scritto e ha detto, sono perfettamente condivisibili, che dimostra che questo non c'entra. Vabbè, certo che c'entra. C'entra perché per quanto riguarda l'elaborazione di quello che noi proponiamo, lui ha contribuito tanto quanto me e gli altri. Quindi da questo punto di vista, io tanto di cappello. Tanto per capirci, capisci? No, ma questo nessuno discute, però scusami, Boldrin, nessuno discute sulle competenze, su quello che dice. Ma dai, ma lo zecchino d'oro! Ma c'è vero che volete andare a perdere tempo su delle cose di seconda qualità? Ma hai presente la nipote di Mubarak? Ma adesso la nipote di Mubarak! Guarda, Fassina è quello che ha detto il sindaco di Siena. Era lì che aveva ripulito la rava alla fava. Oggi hanno cominciato a indagarlo. E lui, sai cosa ha fatto? Da quello che mi ha detto, ha tolto il Twitter dalla... Da che aveva fatto l'altro giorno. Cioè, tu stai dicendo che le balle di Giannino sono balle serie, capisci? Le cose, le bugie che ha detto Oscar sono niente in confronto a questo piccolissimo esempio che ti ho appena raccontato del signor Fassina, che fa il responsabile economico di quello di il più grande partito italiano, e l'ho dovuto sopportare stamattina a Omnibus, che diceva una fregnaccia dietro l'altra. Cioè, un fregnacciaro, dici, in generale, quando lo senti. Insomma, devo dire che per quanto riguarda la qualità dell'analisi economica, Oscar Giannino batte Fassina 10-0. Scusami un attimo, ma il più grande balla per balla, hai capito? Presente la nipote di Mubarak. No, ho capito, io non sono d'accordo con quello che dice, te lo dico subito, però, perché sono due piani diversi. No, sono due piani diversi, sono due piani diversi. L'altro è semplicemente una balla privata. Ma è ancora più grave, è ancora più grave. Ma siamo pazzi. Secondo me sì, secondo me sì. Ah sì, allora che facciamo? Siccome è più grave, ma non lo sto dicendo che deve andare al patibolo, sto dicendo che dovresti essere il primo. Ma che cosa gli hai detto in privato o anche in pubblico, ma soprattutto in privato? Cosa gli hai detto? Che cazzo hai fatto? Come è stato possibile? Gliel'hai detta? Gli hai fatto una bella ramanzina o no? Mi sono fatto anche una bella chiacchierata con lui di 20 minuti circa, un paio d'ore fa, e amici come prima. No, ma amici come prima, d'accordo, ma non gli hai fatto una ramanzina? Ma perché gli fai la ramanzina? Ha 51 anni. Lo so, ma che c'entra lui questo? Non capisca quello che... non sono il papà di nessuno e quindi non vado di sicuro a fare la mattina a un signore che... Senti Boldrini, ma Zingale... ha fatto degli errori, ne ha pagati pesantemente, Giuseppe. No, ma ragazzi, lo so che li sta pagando pesantemente. Ragazzi, basta, ma se viene eletto deve restare, se viene eletto deve restare in Parlamento? Tanto fammi querelare. Allora, io ti posso dimostrare che uno dei più famosi editorialisti di Repubblica, come si chiama? Quello che è il corrispondente loro a New York, quello che voi considerate un guru dell'economia, che sa l'economia. Zucconi. No, Zucconi, quell'altro. Rampini. Ecco. Allora, una buona percentuale dei cosiddetti servizi che lui pubblica su Repubblica, ok, in corrispondenza da New York, sono traduzioni e riassunti di articoli comparsi sul New York Times. L'abbiamo documentato per anni sul blog Noise for America. Tu, questa cosa qui, e lui non dice mai sta cosa è un riassunto di una cosa che ho letto sul New York Times. Pubblica a firma sua. Certo, un riassunto, quindi non è strettamente plagio. Ed è in italiano, non in inglese. Ma è un falsario, dici? Non lo so, decidi tu che parola vogliamo utilizzare. Usala non lo tu. So. Usala tu, che parola vogliamo utilizzare? Io ti ho descritto un fatto. Uno scopiazzatore, come si fa la... È un fatto che ti posso documentare. È documentato su blog Noise from America, ce ne siamo accorti anni fa. Peggio questo di Giannino? Peggio questo di Giannino? No, dillo tu, e sei tu che lo devi dire, Michele. Secondo me, sì. Peggio di Giannino. Secondo me, Rampini, peggio di Giannino. Però scusa, guarda che prendere... avere l'onestà di dire questo articolo è un riassunto di... A parte che Rampini non si presenta alle elezioni, e questo è un dato fondamentale. Numero due, tutti i corrispondenti... Infatti Oscar si è dimesso da quella cosa lì. E comunque Michele, tutti i corrispondenti, come tu sai, dall'estero prendono spesso spunto da altre cose, da altri giornali. Italiano. Sì, ma allora capisci, vale... Allora, se usi quel criterio lì, quel criterio italiano, molti di questi, allora all'improvviso il peccato di Oscar diventa un peccato comune in questo paese. Sai come ci chiamavano a noi italiani in Argentina? L'ho imparato dagli amici argentini un po' di anni fa. Come? Ci chiamavano? Come? Los ingenieros. Cioè? Los ingenieros, gli ingegneri. Sai ah, perché? Los ingenieros, sì, sì. Perché gli italiani erano tutti ingegneri. I migranti italiani erano tutti ingegneri. Cioè che tutti gli italiani raccontavano cazzate. Esatto, raccontavano un po'. Vabbè, ho capito, ma questo non giustifica nulla però, Michele, dai, su. Ma... No, sto facendo il ragionamento tuo. Sì, certo, no, ma ho capito. Io sono uno molto deluso anche, devo dirti la verità. Cioè... Sì, senti, ma dire, infatti, Zingales, la Zingales. La cosa è banale. Sì. Io sono d'accordo su di te, ne parlavamo proprio prima con Oscar, è d'accordo anche lui. Siccome una persona a cui gli si dà un incarico esecutivo di essere presidente del partito e candidato primo ministro ha ovviamente da parte di chi lo delega un potere discrezionale e allora in quel caso deve essere super trasparente, deve essere, come dire, al di sopra di ogni minimo sospetto, una persona che ovviamente è un po' pallonaro, che esagera, che si inventa titoli che non ha, non è adeguato per fare quel lavoro. Infatti lui l'ha capito e prontamente... Però c'è un sacco di gente che ci ha chiamato, d'accordo, c'è un sacco di gente che ci ha chiamato, che ha magari versato del denaro, adesso un sacco di gente, però abbiamo ricevuto molte mail di persone che hanno magari versato dei soldi. Voi che siete lì sicuramente non siete d'accordo con questo, con questi che hanno chiamato, voi che siete lì a Padova insieme a Michele Boldrin, capito pubblico? Allora no, va bene. Però molta gente uguale a voi che hanno messo dei soldi sono arrabbiati come bestie, vogliono questi soldi indietro. Li restituisco io. Siccome abbiamo una contabilità assolutamente trasparente, abbiamo allora? Abbiamo una contabilità con il record di chiunque ci abbia donato dei soldi, dai 10 euro ai 10.000. Se queste persone richiedono la restituzione, mi prendo l'impegno io a nome degli altri, anche se in realtà il potere non ce l'avrei, però sono sicuro che gli altri amici, il tesoriere, saranno d'accordo, li restituiamo. Allora, che mandino un'email con la prova del trasferimento bancario, del pagamento PayPal. Ho capito. Noi li restituiamo, guarda. Ho capito. Senti, secondo te Oscar merita per la sua competenza una laurea honoris causa o comunque una laurea da parte di una università? Ma secondo me sì, ti dirò che è una proposta che più di qualcuno mi ha fatto. Sì, perché davvero, cioè, conoscendo da economista professionista quali sono, e credo di non essere l'ultimo arrivato, Oscar l'economia la sa, non è studiata da solo, ma la sa, ma chapeau se la sa. Cioè, è uno capace di ragionare sulle cose, lavorare sui numeri. Ho capito, Parenzo, sei morto? No, no, io voglio saluto il grandissimo Boldrini, che ha detto una cosa straordinaria, bella, questa idea di restituire i soldi a chi è deluso è un'idea straordinaria di grande trasparenza. Voglio capire dal mio amico Boldrini, chi è secondo te il più grande cialtrone che ha promesso cose impossibili in questa campagna? La classifica dei cialtroni, detto proprio con sobrietà, cialtroni, che hanno promesso l'impossibile. Chi sono i tre cialtroni per te? Per beh, oggi su, credo sul giornale, il titolo era il bugiardo. A Giannino che cos'è che era riservato da parte di Sallusti? Non mi ricordo. Eccolo qua. Dillo tu alla Sallusti, va, Parenzo. Il giornale ha fatto solita apertura, come dire, sobria, il giornale che dirigo molto volentieri, grazie a Berlusconi, Paolo Berlusconi, il mio editore. Abbiamo scritto praticamente che Oscar Giannino è uno stupratore di gatti, lo diciamo con grande rispetto. Ma come grande rispetto? E anche che abbiamo scritto un pezzo di merda, però è una notizia, è un fatto. Il condonato, il bugiardo, il furbetto e il mitomane. Dunque il mitomane, non è un mitomane secondo te, Michele? Ma non lo so, quello è una terminologia tecnica, lascio a chi ne sa più di me. Se fosse qui il mio amico Gerardo Favaretto, che è un grande psichiatra, chiederei a Gerardo tu cosa ne pensi. Siccome Gerardo non c'è, io mi astengo da dare quel giudizio là. Però visto che avete menzionato Sallusti, capite? Sallusti, ecco, io ho avuto un incontro con Sallusti, sì, che è successo, sì, a Ballarò. Lui era lì, io ero in studio, lui era come si dice, in collegamento, e appunto ha parlato i guadagni, dei denari mal guadagnati. Boldrin su Sallusti tra qualche istante dopo la pubblicità. Scusa Michele, ma dobbiamo guadagnare qualche denaro. 800 24 00 24, poi chiudiamo, vi restituisco Boldrin alla piazza di Padova. Avete fatto una sorpresa, ero preoccupato all'inizio per la linea, ma sono felice. Applauso da Padova, grazie. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, soy estanco como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Sentite questa gaffe del direttore del TG5 Mimun con Bersani, ieri sera nell'ultima puntata di Italia Domanda, là, come si chiama, sul fratello di Bersani. Ho sentito un'intervista del suo fratello Mauro. Ah sì? Suo fratello Mauro, che è un prete. Dovete tenere conto che Bersani è nato in una famiglia molto cattolica. È mio zio che era un prete, mio non fratello so se, non è un non prete, so se guarda, sia stato più condizionato dai film di... chirurgo. No, tuo fratello? Mio fratello, sì. È un chirurgo? Chirurgo, adesso in pensione. Allora, niente, sì. Sono stato ingannato. È mio zio. Sono stato ingannato da un italiano. Comunque, fratello e zio prete Mimun. Ma Verdone su che mi ha ispirato Giannino, Verdone, perdonatemi ragazzi, non è sciacallaggio, la zanzara è fatta così, non si ha pietà nemmeno per gli amici, è vero, caro Boldrini, adesso torno subito da lei, però è vero, abbiamo fatto ironia, ci siamo scatenati, non c'è stato nessun eccesso, secondo me, abbiamo fatto la cronaca di quello che è accaduto, abbiamo scavato, abbiamo scoperto cose, è vero, Mago Zulì l'abbiamo tirato fuori noi, non me ne pento, l'ho comunicato a Oscar, l'ho abbracciato lo stesso e lui l'ha capito. Avvocato, ma lei mi deve riconoscere, ma che fa? Mi lascia solo come un cane, mi lascia, mi ha fatto levare pure la milza! C'è un taglio da mezzo metro! Ma calmati, giovane, fammi riflettere un momentino. Ma chi sei, il frutterolo? Ma questo è arrivato! Quando faceva il dentista, ha levato 3 denti a un fruttivendolo che gli ha fatto causa perché erano tutti sani. Sì, sì, sì, tutti sani, nemmeno uno guasto. Tutti ho levati, tutti ho levati. Ma così tutto insieme gli ha preso. Dentro a capo. In collegamento da Padova, 800 24 00 24, Michele Boldrin, economista. Fare per fermare il declino, secondo me il vero successore di Giannino, al di là delle cariche che ci sono adesso. Boldrin, ci sei? Sono qua carissimo. Ma sei uscito dalla sala? Sono fuori dalla sala perché mi hanno detto che c'era troppo ritorno, quindi vedo lo però, schermo, ma però. Sono fuori al freddo per te. Sì, ma ti lascio, fra qualche secondo ti lascio. Parenzo? Sì, tranquillo. Sì. Allora, senti, ti posso fare io una domanda, visto che lo fate sempre tu? Fammela, che ti devo dire? Ma allora, ti ho convinto tu e Parenzo, votate per noi? Vediamo, dai, vediamo. Io... Non dire sì, non dire no, fa solo un gesto, tanto loro ti vedono sullo schermo. Vediamo, dai, vediamo. Vediamo, vediamo, dai. Non lo posso dire. Non si può dire, ci puniscono. Ma ti ricordi la cavallina storna che portava colui che non ritorna, a me chi non ritornerà già mai, tu fossi buona, ma parlare non senti, sai? Michele, il più grande cialtrone, rispondi a Parenzo quando dice il più grande cialtrone della campagna elettorale, quello che raccontava più balle, il podio, facciamo il podio dei cialtroni. Berlusconi primo? Berlusconi primo, Monti secondo, Bersani non ha detto niente, quindi è possibile raccontare balle quando dice un piffero. Ma perché Monti ballista? Ma ti rendi conto? Un giorno imitava Bersani e diceva che anche lui voleva fare la redistribuzione e rimodulare l'IMU, che non l'aveva messa lui, l'aveva messo il gatto, anzi nel cagnetto di casa. Poi è spuntato Berlusconi a pulire le sedie, sì. Ha detto io l'IMU la abolisco, e allora ha detto no, forse anch'io. Adesso è lì, che sempre che non si vede più in giro, non dice più niente. Lo sai perché? Perché? Perché, non fa, no, perché sta cercando di farsi crescere capelli e barba per imitare Grillo, perché gli hanno detto che è Grillo quello che vince adesso. Ma ti immagini, ma è il secondo ballista, c'è cioè uno che ha continuato a raccontare agli italiani che lì non c'era, che il governo era per caso, che le leggi gli hanno fatto gli altri, che lui non ha trovato il tempo per tagliare gli stipendi ai super burocrati e non perché ci vedeva tutti nei ministeri, sì. Eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, di grandi balle come Berlusconi lo sappiamo. Berlusconi inutile. Mondo, inutile. Lui è fuori classe, lui è fuori classifica, no? Però, e Bersani invece non ha detto dopo nulla. C'è Mario Monti, ha detto che fa il rinnovamento con Fini e Casini, hai capito? Vuole cambiare la classe politica con Fini e Casini. Ma non ti pare una balla sufficiente che batte tutte le balle di Oca? No. Tu scherzi su questa cosa qua. Guarda che un sacco di gente, anche che ha votato all'estero. Ma io scherzo, ma io sono uno di quelli che ha detto che deve dimettersi e lo sa. Ma può continuare, se fosse eletto in Parlamento, che succede? Rimane secondo te o se ne va? Ma lui ha offerto il suo posto, ha detto che lui. Ma secondo te deve rimanere invece? Vuoi il mio parere personale e privato? Personale. Non politico. Sì. Guarda, il mio personale e privato è, secondo me, Oscar dovrebbe rimanere come deputato, perché è intelligente, capace, preparato e motivato. E siccome non avrà potere esecutivo, primo, non avrà alcuna discrezionalità sulla vita degli altri, ed è una persona intelligente, e ha pagato il suo prezzo, e l'ha detto, sì, ho raccontato le balle, lo saluto, lo solteranno un po', e vabbè, cioè, gli diventerà la pelle dura. Ma tu ti rendi conto uno che va a fare un dibattito pubblico, io lo dico con grande affetto, ma è così, vai a fare un dibattito pubblico, si alza uno e dice, scusa, ma tu non eri quello che hai detto delle cazzate sulle tue lauree, sul master, eccetera. Ma senti, ma guarda, sono sicuro, gli crescerà il callo, e poi la gente si stancherà, perché siccome l'ha ammesso, l'ha riconosciuto, ma insomma ragazzi, cerchiamo di non essere assurdi, siamo il paese di Beccaria, no? È quello che ci ha insegnato che deve esserci una proporzionalità fra i cosiddetti delitti e le cosiddette pene. A mio parere, ma poi per carità... quelli che hanno votato per Giannino all'estero sono... Quelli che hanno votato per Giannino all'estero sono arrabbiati? Alcuni sono molto arrabbiati, ci hanno scritto, ci hanno scritto. Credo che lui dovrà scusarsi con loro Guarda, alcuni ci hanno scritto, non tanti ovviamente, dall'estero. No, guarda, io ho fatto per esempio il conto, proprio oggi abbiamo richiesto, noi abbiamo avuto questa raccolta di firme dove hanno firmato un grande numero, non tutti, ma un grande numero di economisti italiani molto prestigiosi sia in Italia che all'estero. Sì. Non ho tema di dire che se fai la media pesata abbiamo chiaramente l'elite degli economisti italiani che ha firmato il nostro programma economico. Oggi gli abbiamo scritto dicendo, sentite ragazzi, siccome è successo sto Ambalavan, non c'è solo Giannino. Se volete togliere il vostro nome, toglietelo, per carità, fatecelo sapere. Nessuno l'ha fatto? L'hanno fatto in due e poi... Chi è che ha tolto il nome? Non è il caso, non è il caso. Perché non è il caso? Ma perché non è il caso? Perché non so, perché mai dovrei io dire i loro nomi? È una cosa pubblica, hanno tolto il nome dall'appello... Per rispetto di questi due io non lo voglio dire, permettimi, io ho questo senso della privacy. Comunque, era per finire. Il secondo, che è anche quello di gran lunga più famoso, ottimo professore... grande stella nascente, che ha detto? Giovane ragazzo, dopo un po' ho detto, sai Michele, ci ho ripensato, ho fatto i miei calcoli, il ragionamento molto simile al mio, ed è rimasto il programma economico, rimetti il nome che va benissimo. Senti, un'ultima cosa, Zingale sei un traditore? No, parola forte, è una persona che ha esagerato nel suo desiderio di giustizia, ha fatto confusione Luigi, io l'ho detto finché la cosa succedeva, e lui lo sa. Guarda, anche lui però onestamente oggi ha appena twittato che lui vota fare. Sì, lo so, lo so, lo so. Senti, un'ultimissima cosa che devo chiudere, un'ultima cosa che devo chiudere. Ho ricordato che ci sono delle procedure, vai, vai, dimmi. No, un'ultima cosa, Grillo abbiamo già detto, magari trionfa, ma il programma economico che cos'è? Un manicomio, una follia? Ma non c'è programma economico. Io spero che quei ragazzi e quelle ragazze, quelle donne e quegli uomini che Grillo manderà al Parlamento riflettano assieme a noi, principalmente assieme a noi, perché abbiamo la stessa rabbia, le stesse motivazioni, lo stesso fastidio per questa classe politica, per cercare di... Ma cos'è quella roba lì economica scritta da Grillo? Che cos'è? Una roba da manicomio? Follia, da ambulanza? Ma no, manicomio, un'assurda roba che poi che fa danno alla stessa gente che lui vuol proteggere. Lui su quello, guarda, non lo so, Grillo non riesco a capire se è in buona fede o no, però lui sì, dice delle cose veramente assurde. Che per ma pericolose, di Dio, come dicono alcuni, cioè siamo, se vince è roba da Grecia, è roba da Grecia, come dicono alcuni. Ma peggio, è una roba tremenda. Se noi attuassimo le proposte economiche di Grillo, veramente finiremmo male. Eccoci qui, Fabio da Roma, 800 24 00 24. Fabio, vada. Pronto? Vada. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Sì. Buonasera al signor Parenzo, perché lui non ha titolo. Allora, ma chi se ne frega delle lauree? Ma non sono importanti le lauree. Io ascolto da più di un anno Radio 24. Guardi, c'è una persona che conosco che ha raggiunto posizioni top nell'economia italiana, un mio carissimo amico, posizioni dirigenziali con stipendi molto alti, ma al di là dei soldi, posizioni anche di grandissima responsabilità, ma non ti preoccupare. Pronto, era quello che volevo sentire. Che allora, non sono laureate. Dunque, allora, non guardi, è importante, che non è laureato lui, e comunque ci sono persone che non sono laureate, non è importante. Ci allora, sono guardi, tanti laureati, tanti non laureati che hanno raggiunto, non tantissimi, è ovvio, che hanno raggiunto posizioni apicali, posizioni benissimo, molto importanti. Benissimo, ecco, qui la volevo. Allora, la domanda qual è? Lei aveva il proposito di votare Oscar Giannino, esatto? Io non, si, non posso parlare alla radio. No. Ma io parliamo del passato. Io lo ascolto da più di un anno. Certo, non c'è dubbio. Giannino. Perfetto, lei era anche un po' simpatizzante di Grillo, ma giustamente come... Ma tutti, non sono come simpatizzante, la parola bene, simpatizzante no, mi fa orrore, non bene, è simpatizzante. Allora, le guardi, io voto prendendo spesso delle parti di una persona, dei movimenti. D'accordo, cioè non è che c'è un voto, cioè il voto è qualcosa che ti assorbe completamente. Io non sono mai stato un ideologizzato, ha capito? Non sono avuto adesso, né una cultura arrivo, di destra né di sinistra. Ti preoccupi, ancora non sono arrivato sul personale. Allora, ma non c'è bisogno di arrivare sul personale. No, le dico questo perché io le faccio una domanda ben precisa. Lei perché avrebbe votato Oscar Giannino? Ma perché quello che sostiene, quello che dice, i punti del suo programma mi convincevano, punto. Benissimo. Allora, adesso, lui è fuori gioco, d'accordo? Fuori gioco e... Non dal mio punto di vista. Sì, però andiamo al sodo, Fabio. Va bene, lui è fuori gioco, d'accordo. Allora, lei, ma non sembra, da quello che dice Boldrini, non sembra. Se fosse coerente. No, ma infatti mi fa piacere che è intervenuto prima lui, perché almeno ha anticipato. Vabbè, allora... Bene, allora, lei se fosse coerente lo dovrebbe votare ancora, capisce? Cioè, voglio dire, lei mi sembra che ha la sindrome dei titoli, ora ha detto di no, ma mi è sembrato da quest'anno in più che seguo, che lei ha la sindrome dei titoli... accademici. Allora, io ho la sindrome dei titoli accademici, mi sembra che lei è molto debole con i forti quando poi le spiegano le cose, perché se ne sono le persone competenti, hanno dei titoli, invece è forte con i deboli, infatti spesso lei... Vabbè, questa è una solita cosa, su dai Fabio, andiamo al sodo, puttanata, guardi, dai. Allora, benissimo, allora sul sodo, lei... che lo ascoltava Oscar Giannino la mattina. Sì, andiamo al sodo, che cosa vuole dire? Allora, quello che le volevo dire intanto che io lo voterò, cioè nel senso che a me non interessava, vabbè, lo voterà. Tutto questo per arrivare a dire che lei, nonostante quello che è successo, vota Giannino. Voglio dire anche tutte le persone che oggi si stanno lamentando e dicono che sono delusi, come il ragazzino. Ma è normale essere delusi, ma ragazzi, di che parliamo? Dai, sì, Fabio. Aspetti, però c'è delusione. Allora, lui non ha frodato, lui non ha fatto una truffa allo Stato con i titoli, non è che si è presentato. Guardi, abbi pazienza, Fabio. La prossima volta, mi dispiace, il tempo è finito. La prossima volta che Boldrin non è là in un comizio, non è circondato da decine e decine di persone, se non migliaia, urlanti e applaudenti, per carità, va benissimo. Gli dirò: scusa, con i titoli di cui Oscar si è attribuito, due lauree, eccetera, non è che ci sono solo i concorsi pubblici, si guadagnano dei quattrini anche per fare delle convention. Magari, come no? Li avrebbe guadagnati lo stesso. Senti, David, c'è una persona che legge ogni volta all'inizio delle lezioni, all'inizio degli interventi, all'inizio delle prolusioni, all'inizio. Legge il curriculum, anche questo fa presa sugli altri, anche questo fa presa sulle aziende, non c'è dubbio. Poi lo avrebbero chiamato lo stesso, ma non si può dire che quelle cose là dal punto di vista economico non gli siano servite. Ma lo chiamavano perché era un personaggio eccentrico, perché sapeva parlare bene, perché aveva dei contenuti, vabbè. Ma che era gente stupida. Cioè, va bene, va bene. Lo chiamavano per quello che rappresentava, per quello che diceva, perché non è che ti danno una consulenza o ti fanno parlare a un grande convegno di imprenditori semplicemente perché ti vesti in modo eccentrico. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Giovanni da Milano, 800 24 00 24. Giovanni, dica. Pronto? Vada. Volevo sapere una cosa, io ho sentito l'intervista all'inizio della trasmissione al medico di Berlusconi, volevo sapere se l'hai intervistato come medico o come amico personale di Berlusconi. Ma guardi Giovanni... è una domanda, perché in qualità di medico... Ma che vuol dire? Perché in qualità di lei medico... Lei è medico? Uno non... Lei fa il medico? Io sono medico. In qualità di medico uno non può sfruttare la propria posizione e il fatto che l'autorevolezza che la posizione, il fatto di essere medico dà... Per fare cosa? Per raccontare delle cose che non sono obiettive, nel senso il medico non può fare una pubblicità sfruttando il suo nome. Si ma quale pubblicità? Scusi, quale pubblicità? No, è un esempio. Ma qual è la pubblicità che ha fatto? Scusi. Ma no, vabbè, l'ha descritto come un superuomo, non ha detto. Ma quello che vuol dire? È una persona che parla evidentemente. No, ma quale abuso di professione? Ma non dica stupidaggini, su. Come no? Non ma si può dire che una persona di 76 anni senza allenamento può attraversare lo stretto di Messina tranquillamente. Allora se descrive, se in qualità di medico dice le qualità, deve dire anche che ha avuto dei problemi di salute come tutte le persone normali, che non si tratta di un superuomo. Sì, caro Giovanni, lei può ovviamente criticare quello che vuole delle frasi del dottor Alberto Zangrillo, non c'è dubbio, però stia tranquillo, non è che uno quando parla dice sono il medico dottor Zangrillo. No, è stato introdotto come il medico del personale è anche un amico personale. Ma è anche amico, è la stessa cosa. Ma allora, in qualità di medico uno deve mantenere l'obiettività e non sfruttare il fatto di essere medico per avere una certa autorevolezza. Io non ho capito di che sta parlando lei? Quello è primario. Ma io non ho capito francamente di che cosa sta parlando. Io francamente non ho capito di che parla. In qualità di medico fa campagna elettorale. Ma non ha fatto campagna elettorale. Quando a 3 giorni dall'elezione dice che trattasi quasi di un superuomo che è in grado di fare qualsiasi cosa, qualsiasi difficoltà. Sì, allora? Non mi sembra. È il medico di Berlusconi, io ho fatto le domande io, non è che l'ho chiamato io alla radio, non è che è venuto e si è imposto. L'ho chiamato io per parlare di un problema che ha avuto Berlusconi, gli ho fatto delle domande. Non ha parlato solo del problema clinico di quel momento, cioè della sua congiuntivite, ha parlato anche di altre cose. Ma che cos'è che le dà fastidio? Io non ho capito. Da che cosa è infastidito? Mi dà fastidio. È invidioso? È invidioso per il fatto che lui è il medico di Berlusconi? Ma ci mancherebbe, anche perché io non parlerei di un mio paziente, per esempio, così. Ha parlato di nulla di particolarmente privato e di particolarmente segreto, su. Vabbè Giovanni, però lei non parlerebbe, lui parla. Un uomo pubblico non c'è. Poi scusi un attimo, a parte che sta parlando di un uomo pubblico, e dunque predichiamo la trasparenza, le cose così. Negli Stati Uniti, le cartelle cliniche dei futuri presidenti. Hai detto una cosa intelligente, come mai? Hai detto una cosa intelligente, David. Grazie. Dei futuri anzi, anche durante il mandato Obama, ogni volta che si fa il check-up, fa una conferenza stampa dove lo presenta. Quindi non dica, come diciamo noi a Oxford, stronzate. Scusi Giovanni, poi lei, per carità, ma addirittura abuso della professione, se n'è andato. Sebastiano, sempre da Milano, buonasera. Sebastiano? Fatemi dire una cosa. Pronto? Sì, vada, vada. Mi sentite? Sì, sì. Allora, intanto fatemi dire una cosa, perché questa trasmissione è una droga. In due ore rifletti, ti incazzi e ridi fino alle lacrime. È geniale, ragazzi, vi voglio bene. Vi voglio bene. Applausi, applausi. Ora il mio intervento, due cose rapidissime. La prima è che sei cattivissimo. Cruciani ha manifestato l'intenzione di votare Maroni e per fare un regalo alla sinistra. Questa che cosa ho fatto io? Cosa ho fatto? Oggi Rai 3 ha dato la notizia che Cruciani ha manifestato l'intenzione di votare Maroni. Ma non lo so, io qua non ho detto. Ma io qua non ho detto nulla. Rai 3. No, io non so nulla di questa cosa. Rai 3. Rai 3. Sia regionale che quello nazionale delle 14 del 14:20. No, nazionale mi sembra strano. Nazionale mi sembra strano. Regionale può darsi, adesso andiamo a controllare. Ma sono notizie false e tendenziose, ma non si può parlare di queste cose qui in ogni caso. Non si può parlare, siamo coperti da. Ma non si può parlare, Sebastiano. Si rimangi quello che ha detto. No, ragazzi! No, assolutamente, non mi rimangio niente, andate a guardare il TG3 delle 14, quello regionale, e vedete poi chi dei due deve mangiarsi quello che ha detto. Ma si rimangi quello che ha detto! Si vergogni, qui c'è la par condicio che controlla, c'è la Spectre. C'è la Spectre che controlla. Comunque, salutiamo, guarda, il signore della par condicio. Salutiamo nell'ultimo giorno, caro Parenzo. Salutiamo qui il signore della par condicio. Grazie. Grazie per averci imposto questo bavaglio assurdo. Grazie. Ma sì, gentile, sennò questo ci darà bastonata l'ultimo giorno. Ma che mi frega? Caro signore della par condicio che stai ascoltando in questo grazie, momento. Bravo la radio. Che hai messo queste regole assurde in cui possiamo dire sui giornali per chi votiamo e alla radio. Non possiamo, grazie signore della par condicio per averci detto che 5 minuti a quello, 3 a quell'altro, grazie. Ma il signore poveraccio che è all'ascolto della radio e la ascolterà domani o dopodomani perché ascoltano tutto, non c'entra nulla. Quello esegue una cosa, noi paghiamo un sacco di soldi, cari ascoltatori, un sacco di soldi, questo lo dovete sapere, perché ci sono dei signori, paghiamo un sacco di soldi a dei signori che non c'entrano nulla, che stanno ogni giorno a fare TikTok un minuto e 30 secondi e 40 secondi. Sì, certo, scrivi su Twitter per chi voti e poi lo leggo attribuendolo a qualcun altro, così siamo io a posto. Lo scrivo su Twitter e chi voto. Comunque ragionavo sulle parole d'ordine del Movimento 5 Stelle del tuo amico Casaleggio. Sì, ma sarà amico tuo Casaleggio, non l'ho mai conosciuto in vita mia. L'uomo che avanza, sì. Gente al potere, tutti a casa, noi siamo puri, la società civile, questo è protofascismo. Ma che protofascismo? Non dire stupidaggini, dai, su. Una cosa raccapricciante, i buoni contro i cattivi, il ripulisti, via i giornalisti, marcia su roba, è un linguaggio che siccome è un comico uno ci ride sopra, ma la cosa su Bombassella voglio risentire. Carlo da Padova, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Carlo, abbassi la radio sennò l'ammazzo, eh. Sì? Carlo, sento il ritorno, la sto per strangolare. Non c'è più la radio, vada. Ok, perfetto, dica. Dottor Cruciani, sì. Stasera è la sera dei dottori. Vada. Io l'ascolto molto spesso, insomma, e molte volte sono tentato a chiamarla per dire: ma sì, dai, tante queste cose, piccole provocazioni, le fa giusto per attirare anche l'audience. Guarda. Ma stasera ha detto una cazzata. Di ma su cosa? Proprie. Scusi, su cosa? Adesso glielo dico. Proprio tavanata galattica. Ma qual è? Io ho fatto una considerazione. Quale? I soldi che i giudici che noi speriamo, sì, secondo me, bravo, domande. Esattamente, ma... io la penso così, io penso bravo, che pagare un processo, perché lo paghiamo noi, pagare un processo, ovviamente poi per carità, i giudici li paghiamo lo stesso, al di là di quel processo, ed è giusto che siano pagati. Mettere su un processo perché ci sia un giudice che poi chiede a Berlusconi, a questa signora che si chiama Lisa Barizonte, scusi, ma lei ha baciato Berlusconi alla francese, eccetera, è una follia. Me lo lasci pensare, è una follia. Io gliela lascio pensare. Invece per lei è fondamentale, benissimo. Per lei non è fondamentale. Perché Bresciani, faccia un piccolo sforzo, faccia un piccolo sforzo. Ma sì, ma l'ho capito, bisogna provare l'induzione alla prostituzione minorile, non so che cosa. Un puttaniere incallito che va in ma l'abbiamo già detto, siamo stati tra i primi a scavare su tutte le puttane, su, dai. Cioè adesso state rimproverando a me questa cosa. Abbiamo scavato e chiamato tutte le prostitute possibili immaginabili quando erano prostitute. Su, dai. Cioè, comunque abbiamo... è bello vedere questo. Sto guardando in streaming questa piazza San Giovanni. Ma da Parigi è collegato con noi Gianfranco Vissani. Buonasera. Buonasera. Come andiamo, caro Vissani? Grande maestro. Ma che fai a Parigi? Devo ricevere un premio. Premio? Ma i premi ormai li riceve solo Cracco. Cookbook Word alla carriera. Ah, come si chiama? Che meraviglia. Cookbook Word alla carriera. Dai, un po' di inglese però. Secondo me non è proprio così, comunque. Cookbook Award alla carriera. Senti, maestro Vissani, volevo subito chiedere. Ma ormai questo. I premi, aspetta un attimo, ormai i premi, caro Gianfranco, li prendono solo i cosi, li prendono solo quelli di MasterChef, li prende solo Cracco i premi. È vero, beato lui che prende premi, noi ci accontentiamo di quello che ci... i rimasugli. Dei rimasugli, ma non sei un po' invidioso per questi di MasterChef, Gianfranco? No, assolutamente. Davide? Te ne frega. No, è Cruciani. No, sono Cruciani. No, assolutamente, non mi interessa. Manco lo vedi, MasterChef. No, è proprio vero, neanche lo vedo. Guarda che io, per esempio, l'altro giorno ho scritto... Bravo. Ho visto solo 10 minuti di Sanremo e non ho mai visto una scena di MasterChef, eppure vivo benissimo, alla grande. Anche tu, Gianfranco, non vedi MasterChef e vivi benissimo? Io vivo benissimo, mangio benissimo, sto benissimo. Però è vero che è un fenomeno, c'è stato un fenomeno, ma sono cuochi un po' alla moda, sono cuochi un po', no, che non state dietro i fornelli, dietro i vostri ristoranti, i loro ristoranti saranno così, la qualità sarà scaduta o no? No, questo qui non si può dire, non è questo qui il problema, sicuramente sia lo stesso Barbieri, sia lo stesso Cracco hanno sicuramente dei validi secondi come ce l'ho io, insomma. Tante volte i secondi sono quelli che fanno il posto del numero uno, insomma. Ma sono stati fortunati oppure che è successo? C'è questo fenomeno, c'è un fenomeno, non c'è dubbio, un piccolo fenomeno c'è, poi è molto elitario. Ma in realtà sicuramente, però devo dirti che vedendo insomma certi discorsi che fa la RAI, vedo che ci sta un calo sulla cucina, cioè? Io non è più, diciamo, che sta in crescita ma sta in discesa. Ah, l'ascolto dici tu, no? Sì. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia. Guido Crosetto, il nostro amico, il gigante Shrek che ha fumato 150 sigarette un giorno finendo all'ospedale. Curati, stai bene, è finita, ha ripreso qualche chilo dopo la campagna elettorale. Crosetto dice alla Merlino, Mirta Merlino, la 7, eccetera, eccetera, per chi non lo sapesse, mi hai tenuto a fare tappezzeria. Però Crosetto, ho visto che lei non ha fumato finora, quindi mi sento in dovere di farle fare una battuta finale per premio. Visto che mi ha usato solo per farmi qualche battuta, qualche insulto e farmi parlare di video omofobo per fare per il resto. La tappezzeria non è il caso che dica niente, faccia parlare gli altri. Ma non ho fatto, non è vero, guardi, posso dirle, non ha fatto tappezzeria. No, guardi, faccia pure parlare, lascio lo spazio agli altri, stia tranquilla, nessun problema. È collegato, è un po' più complicato tutto qua, non faccia l'offeso. Ma guardi, senza niente, lascio spazio agli altri. Va bene, lasci spazio agli altri. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Non si possono fare endorsement, ovviamente, però davvero mi dispiacerebbe se non ci fosse Crosetto nel prossimo Parlamento, non che il Parlamento sia, per carità, l'unico posto dove fare qualcosa, però Parenzo, mi dispiacerebbe assai, devo dire. Una brava persona, ma non capisco, tu stai trasmettendo dal palco, da dietro il palco di Piazza San Giovanni, Oddio. Sei lì col Casaleggio, no? Senti, qualcuno mi ha scritto su Twitter in questo momento che vota, qualcuno mi ha scritto su Twitter che vota, mi sembra, Giannino alla Camera e PD al Senato. Lo stai vedendo pure tu questo Twitter? È indirizzato anche a te. No, non lo so, non riesco a capire, sai, sui nomi su Twitter ci sono dei nomi strani. Però è indirizzato anche a te. Non è il tuo account. Però è, ci sei anche te in allegato. Mi sembra che quello che scrive questa persona è alla Camera Grillo e al Senato PD, giusto? Ma chi? Questa persona che ha scritto, su Twitter. Io non ho scritto niente su Twitter. Sì, lo so, però ci sei anche tu in allegato. Ha scritto Camera Grillo, Senato PD, giusto? E per chi sarebbe? Di chi parla? Vabbè, non hai capito. Ma io smentisco, ma totalmente, ma adesso vi ma pare non che... Non tu, non si possono fare... ma ti pare che... Però su Twitter mi sembra che qualcuno abbia, un nostro amico ha scritto che vota così, è corretto oppure no? Ah, che lui vota così? Che lui vota così, certo. Lui chi? Vabbè. Vissani? Ma mi sembra veramente Vissani. Beh, Vissani, faccia il carrello dei bolliti, maestro, sono Parenzo. Ah, scusa, sei Parenzo, sei Davide. Sì, ciao, Davide. Ascolta, però posso dirti una cosa, Crosetto sì. È una brava persona. Lo so. Vedo che c'è stato un po' di... Di che? Io ho visto un po' di accensione ai motori. Vabbè, sai, Crosetto è uno che si scalda, si scalda. Però è una brava persona. Ma tu per chi voti, Gianfranco? Ah, no, questo qui non è che rimarrà nel mio cuore, forse neanche voto, sono a Parigi. Come manco voti, scusa? Ma no, capito, voti, vai, dai, scusa, su. Scusa, se devo prendere il premio come faccio? Mi devo dividere in due? Vabbè, ma quando torni, scusa, quando è previsto il ritorno in Italia? Ritorno in Italia domenica sera. C'è lunedì mattina, ma tu dove voti, in Umbria oppure a Roma? No, lunedì mattina voto in Umbria. Ah, in Umbria. Vabbè, ma per chi voti? Dai, dici per chi voti, su. No, sì, voto per tutti. Per Bersani, sì, per tutti, dai, per Bersani voti. Posso votare pure per Giannino, che significa? Beh, anche per Giannino, perché no? Assolutamente. No, vabbè. Che volevi fare col carrello dei bolliti? No, volevo fare col grande maestro il carrello dei bolliti, cioè chi sono questi bolliti della i politici che vedi più bolliti. Il bollito è anche una cosa ottima peraltro, quindi non è detto che sia, anzi, non è un senso negativo. Quali sono i più bolliti? O il più stracotto, lo stracotto. Lo stracotto, a chi lo vuoi abbinare? Berlusconi? Ma perché lo stracotto? Lo stracotto... È il stracotto, che è lì da tanto, capito? È stato cucinato a lungo, è da tanto tempo lì, è un po'... Chi è lo stracotto della politica? No, lo stracotto non esiste, lo stracotto. Mettiamo altri piatti, no? Vabbè, il bollito. È il bollito misto, a chi lo vuoi fare? A chi lo vuoi affiancare? A Monti che è il bollito, dici? Perché è bollito? Perché ti ha corcato le tasse, che ha fatto? No, ma ci sono tante, vedo che ci sono molti gruppi lì dentro, no? Non è che c'è solamente Monti. No, certo, e dunque chi è il bollito lì? Fini? Vabbè, sono tutti, no, ci sono un po' di, no, Fini no, non è possibile. No? No, assolutamente, però vedo che ci sono molte coalizioni che fanno parte della lista sindacale. Perché è un misto, dici, ma guarda che le coalizioni più numerose sono le altre, lì ci sono solo tre partiti, eccetera. Vabbè, ma insomma, il politico che vedi più bollito, chi è? Dopo ti lascio. Il politico più bollito in assoluto. Non si può dire, ma perché non ti vuoi sbagliare? Ma sei peggio dei Democristiani. No, perché vanno tutti a me. Io sono amico di Tabacci, di Bruno Tabacci. Vabbè, ho capito, Tabacci si candida con Bersani, vabbè. Ho capito, scusa, però... No, per carità. Ma è una buona forchetta, Tabacci? No, a parte che siamo amici, è una storia antica. Ma chi è quello che viene da te e mangia come un matto, proprio quello che mangia di più di tutti? Tutti quanti bravi, quando vengono a me sono tutti quanti. Come sei democristiano? Ciao Gianfranco, ti ringrazio. Ciao da Parigi, ciao. Ma che è diventato sto Vissani? Oh, mamma mia, una delusione tremenda, una cosa pazzesca. Fabio da Napoli, ma che ne so, Fabio, io l'ho intimorito, ma figurati. Fabio. Buonasera, ciao Giuseppe. Vada. Ciao Davide. Volevo portare avanti quello che è il mio partito, ovvero il partito di quelle persone che domenica e lunedì si staranno a casa tranquillamente. Vabbè, pazienza. Non andranno a votare. Non ci strapperemo i capelli, insomma. No, voi di certo no, magari i politici sì. Ma figuriamoci. Perché se tutti quanti facessero come faccio io. Ma cioè, è il suo diritto, per carità. No, appunto, segue il mio discorso. Facciamo conto che io fossi un macellaio. è che la maggior parte degli italiani in Italia fosse vegetariana. In Italia ci sarebbero solo macellai buoni, giusto? Oppure quei pochi che sono riusciti ad esistere. Il problema in Italia è il fatto, non sono i politici, sono gli italiani che hanno ancora il coraggio di andare a votare. Ma guardi che sarebbe esattamente la stessa cosa. Non è uguale. La stessa cosa, assoluta, ma no, assolutamente. Come no, assolutamente sarebbe no. La stessa cosa. Nelle altre grandi democrazie c'è il 40%, il 45% che va a votare. In Italia c'è sempre una marea di gente che vota, che se ne dica. Certo, nelle ultime elezioni qualcosa è diminuito, ma insomma siamo lì. Renzi in collegamento con la 7. Oggi ce la stiamo giocando sul filo dei voti. Più in generale io ho trovato tanta gente che ha voglia di far politica, non soltanto per il centro-sinistra, le stesse piazze di Vabbè, Grillo, l'appello finale, proprio la trasmissione la chiamano così, proprio l'appello di Renzi, e fa un comizio direttamente allora, no? Simone contento. Dalla provincia di Monza, vada. Simone, quanto? Vada. Mi sente? Fino a prova contraria noi la sentiamo. Niente, di Brescia, non di Monza. Non ho capito, va bene, di Monza, va bene, provincia di Monza. Simone, provincia di Monza. Di Brescia, va bene. Allora, volevo dirvi che io sono di centrodestra, ma mi auguro che Berlusconi non vinca perché secondo me porta Iella. Chi è che porta Iella? Berlusconi, porta Iella. Se si ricorda nel 2001 appena vinto le elezioni lei dice che provo la crisi economica eccetera eccetera. Nel 2001 sono cadute le Torri Gemelle dopo 6 mesi. Sì, ma quelle lei ha fatto un'assicurazione, che ha fatto nel frattempo? No, non ho fatto nessuna assicurazione. Che ne so, magari però, aveva fatto un'assicurazione dopo 2 anni. Sì, no, ma ho capito, mi ricordo la successione degli eventi. Uno splendido tweet di Pierluigi Battista, editorialista di Corriere della Sera, che scrive: raduno nazionale di scientologi nei pressi di Piazza San Giovanni. Quindi è passata questa cosa. Come ti piace questa roba qua? A te no, invece. Bah, sì. Tu vorresti essere lì sul palco, vero? Con la parrucca di Casaleggio e gli occhiali. Ma secondo te? Siccome intuisci, cioè ti piace stare dalla parte. Senti qua, diretta di Sky G24, Grillo in arrivo a Piazza San Giovanni col pullman, le persone che lo attendono. Certo, sembra una dunata di queste qua, no? Di queste corre che arriva, no? Col no, guru ma è bello, che arriva. È bello la gente che è riuscita a portare lì in piazza, ma è uno spettacolo gratuito. Forse ci sarà Celentano, è chiaramente un evento, è un media event, è una roba straordinaria. Va bene, ma che c'entra con la politica? Cosa c'entra? No, non puoi dire politica? Questo, non puoi dire cosa questo. Massimo da Monza, poi è una sorpresissima. Te l'ha spiegato Boldrin. Buonasera, Cruciani. Massimo da Monza, vada. Buonasera, mi sente? Ma qui siamo una radio aperta a tutto. Ale, quello che votiamo noi non ve ne deve fregare nulla. La radio è una cosa, il mestiere che facciamo è una cosa, la radio è la politica, ma soprattutto non la politica, il voto, la politica ovviamente fa parte di noi ogni giorno, ma il voto è un'altra cosa, dunque non ci rompete i coglioni. Massimo da Monza, su. Mi sente, Cruciani? Sì. Sì, buonasera, salve, a lei e Parenzo. Senta, chiamavo per questo motivo, già un po' di sere che l'argomento verte sempre sullo stesso punto. Lunedì o martedì mi sembra che abbiate chiamato Minzolini e durante la discussione lei aveva detto che non esistono giornalisti non schierati. E invece ma non schierati dire con le proprie idee, diverso. Io questo, lui ha detto forse non esistono giornalisti non schierati, ma io non penso che sia così. Poi la parola schierati mi fa orrore, mi fa orrore. Ma certo. Ognuno può avere la propria ideologia, l'importante è che poi nel mestiere di giornalista. Ma è ovvio che la sensibilità poi. No, cioè. Allora veniamo al dunque: ci sono giornalisti come ad esempio reputo lei, come Milan, come anche altri giornalisti, come Travaglio, che alla fine siete degli spaccamaroni perché tirate mazzate a destra e a manca, ma il vostro obiettivo è quello di restare nel mezzo. E non cioè poi trovare poi vada dunque invece ci sono giornalisti che bisogna dirlo e quello che non riesco a capire è il perché lei continui a invitare in trasmissione sempre soltanto questi giornalisti che sono i cosiddetti servi Minzolini, Tallucci. Che noia, perché dà del servo? Perché dà del servo alle persone? Perché dà del servo alle persone? Perché dà del servo alle persone? Ma si vergogni, non usi queste parole. Non si permette di fare determinate considerazioni. Ognuno Milan, ma cosa c'entra? Non faccia paragoni. Non faccia paragoni. Ma non faccia paragoni assurdi, non faccia paragoni assurdi, non chiami servi le persone con una parola orrenda, servo. Ognuno giudica. Camper, senza attribuire come che camper. In camper come doveva arrivare camper, che c'è da perché in camper ci vanno tutti c'è stato e andiamo tutti a fanculo la zanzara dispettosa è finita caro Parenzo è finita la campagna elettorale anche per noi fammi vedere ringrazia i tuoi datori di lavoro umilmente mica finito tutto finito solo la campagna elettorale poi si ricomincia ovviamente a martedì ricomincio. Comunque grazie Squinzi pronto? Pronto? Pronto? Oh, buonasera signora Barizonte signora Barizonte sì salve buonasera qui Radio 24 è la zanzara il signor Cruciani la disturbo? In questo momento sì, chiedo scusa, ma no, ma una piccola chiamata, gentilmente. No, una piccola domanda, volevo fare una piccola domanda. Ma sono impegnata in questo momento, se mi vorrei chiamare domani mattina mi fa una cortesia. Lei dice domani mattina poi è tardi. Grazie. È tardi. Mi dispiace, allora no, ma solo una cosa, ma il famoso bacio alla francese com'è stato? Va bene, la ringrazio, buonasera. Va bene. Era il bacio alla francese. Ecco il salvatore. Eccolo col camper. Sentiamo. Dai. Bacio alle persone. Perché non ha risposto alle nostre domande? Grillo. 120.000 persone, 130.000. Perché ecco, non ha risposto alle nostre domande? Ecco Grillo, Cruciani dietro. Ma io sono Capaleccio, qui, imbecille, eccolo lì, dai. Eccolo lì. Ecco, ha preso il microfono. Gli era passato Ma Cruciani. È come, scusi. Eccolo. Ma è come domande. Se dicessi cretino. Eccolo. È appena arrivato in piazza, sta è arrivato in piazza accompagnato da Giuseppe Cruciani e San Roberto Casaleggio. E allora Grillo non ha risposto. Ma sei un poveraccio. Domanda. Eccolo. Ma sei un poveraccio, come se io dicessi. Cari amici di Roma, salutiamo Giuseppe Cruciani e San Roberto Casaleggio, vaffanculo! Aspetta, fammi sentire. Vaffanculo, per favore. Per favore. Abbiamo fatto. Mi aspettavo qualche cosina in più, Allora, il 77esimo convegno e incontro, non sono neanche dei comizi. Sono arrivato, siamo partiti e abbiamo fatto tutta l'Italia, 12.000 chilometri, ed è successo piano piano, è già successo. Siamo entrati in un'altra fase che non so come sarà, ma è un'altra fase. È incredibile come anch'io sono cambiato io, sono, siamo cambiati noi. Siamo cambiati invece di un movimento, siamo un non so che cosa, un'associazione a delinquere, no. Siamo, ma no, lo sai che il cronista di Sky G24 che segue l'evento, adesso gli ascoltatori che sono qui e ci stanno ascoltando per radio non lo possono vedere, ma assomiglia incredibilmente a Capezzone, è uguale, Capezzone con 2-3 anni di meno, è identico, uguale, il Capezzone di Sky G24. Lo sto vedendo su DGCom. Vado a dormire da amici, nessuno vuole i soldi, lui viene gratis, sono tutte persone che tolgono tempo al loro lavoro. Vabbè, alla loro vita. Valentino da Novara, buonasera Valentino da Novara, è finita la campagna elettorale, è finita per fortuna, Valentino dica. Buonasera Cruciani, sono Valentina. Sì, buonasera. Vada. Senta, due domande, io volevo chiederle culo, questo, dai. Volevo dirle, se secondo lei... Zingales che ha fatto questa dichiarazione, insomma, svelato il problema di Giannino, non ha dimostrato il fatto che tutta questa coesione nel movimento in fondo poi non c'è. Forse faceva meglio a fare un po' il democristiano, non dire nulla e magari se una volta fosse stato eletto Giannino, a quel punto chiedergli di ritirarsi. Ma che ne so, mi sembra un problema superato ormai. E un'altra cosa, poi la lascio, sì. Giannino non è diventato Giannino perché ha millantato le lauree. Forse se non l'avesse detto non no, non credo, per aver millantato le lauree non credo proprio, guardi, no. Questo no. Che poi gli siano serviti in alcune occasioni, al contrario di quello che dice Parenzo, anche per i suoi lavori, non c'è dubbio, secondo me. Assolutamente sì, ma che per diventare quello che è diventato gli siano servite le lauree? No. Insomma, ha fatto il direttore di libero mercato. Non per le lauree, non per le lauree. Per quello, perché sapeva di economia. Ma quello che c'entra? Io ho detto, non parlo di quello, io parlo di altre cose. Io parlo di altre cose. Ma gli imprenditori che lo invitavano ai convegni, mica gli chiedevano. Ma non è quello, ti ripeto, non è quello. Quello però conta, conta in un certo mondo. Ma com'è? Fa freddo? Dice un po', fa freddo da San Giovanni che sei lì sul palco. Com'è? Ma sono qui a Milano, via Monterosa. Sei lì sul palco a reggere il microfono a Beppe Grillo. Ma io non ho mai retto microfono in vita mia, figuriamoci. Guarda, te lo leggo anche. È una cosa meravigliosa avere qui anche Giuseppe Crociani, è bellissimo. Elio da Modena, guardalo, dica. Adesso gli risistemiamo i cappelli. Vada veloce che devo chiudere. Io volevo dire una cosa, è alcuni giorni che si parla di Giannino, vorrei parlare un attimo anch'io, poi la lascio il suo lavoro. Sì, ma deve essere veloce. No, sono veloce. Io se mettiamo, le faccio una domanda. Se metto sul piatto del bilancio un grande Giannino, lei quale che sceglierebbe con la figura che hanno fatto queste persone? Chi? Tra i due. Ha fatto più figura Giannino a dovettere alcune cose nei confronti del oppure? Oppure il magistrato Ingroia. Ma che c'entra? Ma qual è il paragone? Sono paragoni assurdi. Ci sentiamo lunedì 18:30 per la grande serata elettorale con i risultati. David, abbraccio a tutti. Saluti, vi abbraccio fortissimo. Ciao. Sorpresa, mi sono portato la classe. Ho interrotto il comizio per voi. Ciao Crociani, ti vedono tutti da Padova. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Andate a fanculo, basta, buttate. Radio 24. La passione si sente.